1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci, le 7:20 minuti. Qui stavamo discutendo di Cacà. Io e Peter Bescapè, mi fa: ma sei contento che è tornato Cacà? Queste erano le riflessioni profonde che stavamo facendo poco prima di entrare in onda. Io gli ho detto: ma che sei matto? Tu ti metteresti con la fidanzata di 15 anni fa? Ecco, questa è la risposta. Comunque, la questione è questa. Allora, di cosa parliamo oggi? Di cose più serie. Vale a dire la vicenda Berlusconi. Avremo ospite alle 8:15 Luciano Violante, l'uomo all'interno anche del PD, anche il presidente di quella commissione dei saggi. I saggi, cosa stanno facendo i saggi? Ah, vabbè, dei saggi, e l'uomo che all'interno della questione Berlusconi ha aperto molti spiragli, attirandosi anche molte critiche all'interno del PD. Parleremo anche di scuola. Avremo il ministro Carrozza alle 8:30 con noi, anche perché ci piacerà parlare del metodo, lo strumento col quale hanno trovato questi 400 milioni per la scuola, vale a dire aumentare le accise sugli alcolici e forse anche in arrivo l'aumento dell'imposta di registro. Allora, il concetto è: benissimo investire nella scuola, vi pare giusto però che per investire si debba trovare una tassa, in questo caso la tassa sul vizio, la tassa sugli alcolici, per fare cassa e trovare soldi per la scuola? Ne parleremo alle 8:30, sarà con noi anche il ministro Carrozza. Ora andiamo a leggere i giornali che troviamo in edicola. È martedì 10 settembre, intanto i titoli. Il Sole 24 Ore apre proprio sulla scuola, più insegnanti di ruolo, questo è il titolo di prima pagina. E poi la vicenda Berlusconi, anche perché davvero si rischia la crisi. È vero, uno dice, lo dite tutti i giorni, lo dicono e lo scrivono tutti i giorni i giornali, ma questa volta pare davvero che la crisi sia un passo. Governo a rischio su Berlusconi, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica, PDL, se la giunta vota addio governo. Libero, sprint di giudici e PD per far fuori il cavaliere. Il Fatto Quotidiano, la giunta non fa sconti, Caimano appeso al colle. Il Messaggero, crisi, ultimatum di Berlusconi. Per Il Giornale, il PD fa decadere Letta. Il Secolo, caso Berlusconi, muro PD 5 Stelle. Mentre l'Unità, Berlusconi, rinvio impossibile. Cito anche invece Avvenire, niente gas, niente raid, l'apertura sulla Siria. Ma soprattutto cito il giornale da cui voglio partire e vi assicuro, cari ascoltatori, per me, che da tempi non sospetti, ho detto Domenico Quirico, è da sempre l'inviato di guerra preferito. Mio, preferito, scelta personale, da anni lo seguo con estrema passione. Beh, tornare a leggere la firma di Domenico Quirico oggi sulla stampa è davvero un qualcosa di poetico che non so neanche descrivere. Ebbene, voglio partire proprio dalla stampa, in prima pagina, io tra bombe, fughe, umiliazioni. Vi raccomando questo racconto di Quirico, al di là della prigionia, eccetera. È veramente tornato lui dal suo stile, dal suo modo di raccontare. Guardate per esempio cosa scrive in prima pagina in corsivo, prima del lungo reportage di 5 pagine in cui racconta tutta la sua prigionia in Siria. Scrive Domenico Quirico: la notte era dolce come il vino l'8 aprile ad Al-Qusair, Siria, per raccontare un altro capitolo della guerra siriana, dove la primavera della rivoluzione sembrava poter durare per sempre e capovolgere il mondo. E invece sono stati 152 giorni di prigionia, piccole camere buie dove combattere contro il tempo, la paura, le umiliazioni, la fame, la mancanza di pietà, 2 false esecuzioni, 2 evasioni fallite, il silenzio di Dio, della famiglia, degli altri, della vita. Ostaggio in Siria, tradito dalla rivoluzione che non è più ed è diventata fanatismo e lavoro di briganti. L'ostaggio piange, qui tutti ridono del suo dolore considerato come prova di debolezza. La Siria è il paese del male, dove il male trionfa, lavora, inturgidisce come gli acini dell'uva sotto il sole d'Oriente e dispiega tutti i suoi stati, l'avidità, l'odio, il fanatismo, l'assenza di ogni misericordia, dove perfino i bambini, i vecchi, gioiscono ad essere cattivi. I miei sequestratori pregavano il loro Dio stando accanto a me, il loro prigioniero dolente, soddisfatti, senza rimorsi, attenti al rito. Cosa dicevano al loro Dio? Ecco, questo è un corsivo che Domenico Quirico affida alla prima pagina della stampa, e poi all'interno ci sono 5 pagine di racconto invece più letterale della sua prigionia, quei momenti difficili, l'arresto. Il momento della prigionia, racconta pagina 4 della Stampa, ci tenevano come animali costretti in piccole stanze con finestre chiuse nonostante il caldo terribile, gettati su pagliericci, ci davano da mangiare i resti dei loro pasti. Nella mia vita, nel mondo occidentale, non ho mai provato cos'è l'umiliazione quotidiana nelle cose semplici come il non poter andare alla toilette, il dover chiedere tutto, sentirsi dire sempre di no. Credo che c'era una soddisfazione evidente in loro nel vedere l'occidentale ricco ridotto come un mendicante, come un povero. Racconta anche dei tentativi di fuga. A un certo punto prendono col suo compagno di prigionia due granate. Pensavamo di sorprenderli con le granate, prender loro un telefonino, telefonare a casa, farci guidare nella fuga. Ma purtroppo, o per fortuna, perché credo che un simile tentativo mi avrebbe creato enormi problemi morali, la cosa non è andata in porto. Ma certo tentano due volte la fuga, vengono ripresi, trattati, legati e incaprettati per 3 giorni e lasciati così. Il nostro valore, dice Quirico, era quello di una mercanzia, non si può distruggere la mercanzia, se no si rischia di non ottenere più il suo prezzo. E una volta ho parlato con Georges Malbruno, giornalista del Figaro, tenuto prigioniero 4 mesi in Iraq. Credo sia stato ostaggio in condizioni forse addirittura peggiori delle mie, in una grotta, e raccontava questa depauperizzazione di tutto ciò che uno è, le scarpe, i vestiti. Io sono stato 5 mesi senza scarpe, camminando a piedi nudi. Per 5 mesi il mio ritmo di vita è diventato il sole che spunta, il sole che tramonta, e poi l'impossibilità di fare le cose che costituiscono la vita: camminare, muoversi, incontrare persone, scrivere, leggere, guardare il paesaggio, sognare di fare delle cose che poi magari non fai, che sono il tuo modo di vivere. Io per 5 mesi ho vegetato, nel senso stretto della parola, 5 mesi in cui mi è stata succhiata la vita ed è stata sostituita con qualcosa di artificiale. Ci sono poi le finte esecuzioni, lunghi momenti in cui ti vergogni. Mi ricordo la finta esecuzione di Dostoevsky, ti viene una rabbia per la paura che hai, senti che l'uomo che è vicino a te traspira e trasuda, respira il piacere di avere nelle sue mani un altro uomo, sentire che tu hai paura, e ti viene la rabbia perché tu hai paura. È un po' come quando i bambini, che spesso sono terribilmente crudeli, strappano la coda alle lucertole o le zampe alle formiche, la stessa ferocia terribile. E poi insomma la trattativa, i libri, la fede, insomma il racconto molto molto intenso di Domenico Quirico, che è tornato. Come racconta la Stampa, ci sono altre persone, c'è un italiano, un gesuita in Siria, c'è un italiano cooperante da 19 mesi tenuto in Pakistan, non si sa nulla di lui. E poi ci sono ovviamente tante altre persone che sono tenute prigioniere. Comunque vi segnalo il ritorno di Domenico Quirico. Io ho voluto iniziare così oggi la segna stampa perché per me è un piacere davvero personale, ma credo anche una lettura molto molto bella da poter fare. La trovate oggi sulla Stampa. Andiamo alla pubblicità e il meteo e poi ci ributtiamo sulle cose più prosaiche. Berlusconi, la vicenda del governo e la domanda che si può fare ossessivamente e si può fare dal 31 luglio, dal giorno della condanna, e si potrà fare oggi e si potrà fare per i prossimi giorni. Cade o no il governo Letta su questa vicenda? Bah, ai posteri l'ardua sentenza. 24 mattino. Allora, eccoci qui alle 7:34 minuti. La politica italiana è tutta sul filo del rasoio, perché vi dovrete aggirare, se leggerete i quotidiani di oggi, tra un ginepraio di articoli retroscena su quello che è successo ieri alla Giunta per le immunità. La vicenda della decadenza di Silvio Berlusconi. La giunta in pratica ha deciso di respingere le 3 pregiudiziali presentate dal relatore Augello, che è del Popolo della Libertà, e ha deciso che già da questa sera alle 20 si potrà votare sulla decadenza, sull'applicabilità della legge Severino, e quindi sulla decadenza di Silvio Berlusconi dopo la condanna passata in giudicato e la condanna e quello che ne consegue ovviamente. E allora eccolo qui, da qui la minaccia del Popolo della Libertà: se procedete così speditamente c'è davvero la crisi di governo. Quindi dovremmo essere davvero a re d'azione. Dovrebbe essere il giorno decisivo tra oggi, domani, secondo il Sole 24 Ore. Berlusconi tiene pronto lo strappo per domani, pagina 5 del Sole. Oggi alle 20, ripeto, si riunisce la giunta. Ci sarà una seduta, forse una seduta notturna, o forse una seduta che viene rinviata poi a domani. Ma insomma, sono le 48 ore decisive. Ah, questa volta pare sì, per qualcosa. Rottura in giunta, crisi più vicina, racconta per esempio sotto questo titolo l'articolo Barbara Fiammeri, a pagina 5 del Sole 24 Ore. Torna a crescere il vento di crisi, muro contro muro tra PD e PDL, ormai giunto ai round finali. Già stasera, ma più verosimilmente domani, la giunta per le elezioni si potrebbe pronunciare sulle pregiudiziali di costituzionalità della legge Severino, da cui dipende il destino parlamentare di Berlusconi. E inoltre, il 19 ottobre, questa è una notizia che è arrivata ieri, la Corte d'Appello di Milano si pronuncerà per rideterminare al ribasso i 5 anni di interdizione dai pubblici uffici inflitti a Berlusconi per il caso Mediaset, una diminuzione di pena che in ogni caso oscillerà tra il minimo di 1 e il massimo dei 3 anni. Con questa, diciamo, mossa a tenaglia, la situazione di crisi politica è davvero dietro l'angolo. Come al solito Berlusconi in questi giorni è silenzioso, e quindi esondano, devo dire, i retroscena dai giornali. Ognuno al suo e ognuno dice è il retroscena più informato. Ugo Magri sulla Stampa, così come per la verità sul Giornale, racconta che Berlusconi, quando lo chiamano i suoi amici, sapete che fa? Non ha perso il buon umore. Pronto? Pronto? Non sento, ripeti che qui a San Vittore le linee sono molto disturbate. Ecco, questo sarebbe il modo in cui Silvio Berlusconi, scherzando, accoglie alcuni dei suoi amici quando lo chiamano in questi giorni. In realtà, al di là di questo modo un po' da ganassa, come dice Ugo Magri, cioè un modo brianzolo, no? Come definirebbe in Brianza, di fare il ganassa, cioè un po' a Milano si dice il bauscia, cioè uno che se, un po' così fa il sostenuto, no? Facendo finta che sia tutto a posto. In realtà l'umore è quello descritto come incavolato come una pantera da alcuni, arrabbiato, umore pessimo, per il Corriere dato per furibondo. Insomma, un Silvio Berlusconi che, secondo tutti i retroscena, questi sono abbastanza unanimi su tutti i giorni, abbastanza certo, mi vogliono fare fuori. Ecco qui il Secolo XIX, pagina 3, con il suo retroscena bello di Giovanni Palombo. Ora tutti all'attacco, ma non mi crocefiggeranno. L'idea è: voglio agire prima. Tanto che, secondo il Corriere della Sera, Paola Di Caro, a pagina 6, la tentazione c'è stata addirittura da parte di Berlusconi di fare un blitz nella seduta della giunta, poi è stato fermato dalle solite colombe e i falchi e le colombe. Voi immaginate attorno ad Arcore che si aggirano i falchi e le colombe. L'idea di presentarsi alla giunta è stata accantonata. Per Libero, il Cavaliere vuole la vendetta, retroscena di Salvatore Dama, mi hanno fregato. Per Repubblica, la sua filosofia ormai è muoia Sansone con tutti i filistei, Carmelo Lo Papa, pagina 3, la pistola del Cavaliere alla tempia dei democratici, allora muoia Sansone con tutti i filistei, l'ex premier vuole rompere già domani, non mi farò strappare lo scalpo. Vabbè, questo è il clima. Gli articoli, se volete, un po' che si distinguono su questo tema sono Giovanni Bianconi, pagina 6 del Corriere della Sera. Il titolo: domiciliari impraticabili per un leader, e Coppi, cioè l'avvocato Coppi, insiste sui servizi sociali. Scrive Bianconi: quando l'avvocato Coppi ha provato a spiegarglielo settimana scorsa ad Arcore, lui, Silvio Berlusconi, mostrava di non crederci. Ma com'è possibile? È possibile, gli ha detto l'avvocato, perché c'è una condanna definitiva e, per quanto la consideriamo ingiusta, è valida e deve essere applicata. Quindi, se l'ex premier prima del prossimo 15 ottobre non chiederà l'affidamento in prova ai servizi sociali, il 16 si presenteranno due carabinieri, lo porteranno nella stazione più vicina, gli faranno le foto segnaletiche di faccia e di profilo, prenderanno le impronte digitali, poi lo accompagneranno di nuovo a casa nelle vesti di detenuto agli arresti domiciliari. Tutto questo avverrà in automatico se nel frattempo il Senato avrà votato la decadenza in base alla cosiddetta legge Severino. Se invece l'ex capo del cambiare il governo fosse ancora un senatore in carica, ci vorrà la ratifica dell'arresto da parte dell'assemblea di Palazzo Madama. Ma insomma, questo profilo, questa idea di addirittura due carabinieri che si presentano e lo portano a fare le foto segnaletiche è un qualcosa che l'avvocato ha spiegato a Berlusconi, e Berlusconi è trasalito e trasecolato. L'altro articolo interessante che trovate a pagina 5 sul Quotidiano Nazionale, l'edizione del Nord Il Giorno, è firmato Antonella Coppari, il titolo è questo: spunta un ricorso al TAR sulla legge Severino, un disobbediente può salvare Silvio. Questa storia mi ha molto incuriosito. Il 2 ottobre il TAR si dovrà pronunciare sul ricorso di Andrea Alzetta. Andrea Alzetta, chi è? Un disobbediente che tra l'altro nel 2003 scaricò o partecipò a un'iniziativa in cui scaricarono una vagonata di letame davanti proprio a casa Berlusconi. E ma tu guarda, scrive Il Giorno, in una giornata nerissima per Berlusconi viene fuori che a dargli una mano potrebbe essere chi gli ha scaricato il letame davanti casa. Perché Andrea Alzetta, che ha una condanna a 2 anni di una vicenda passata del 96, ha fatto ricorso perché in base a quella condanna non si può candidare al consiglio comunale della sua città. Ha fatto ricorso. Il 2 ottobre il TAR chiederà alla Consulta, quindi alla Corte Costituzionale, di esprimersi sulla costituzionalità della norma, che è la stessa norma Severino che riguarda Silvio Berlusconi. Ed ecco che addirittura, secondo Il Giorno, dovesse il TAR dare ragione a questo disobbediente che peraltro ha scaricato merda davanti a casa di Berlusconi, gli avvocati di Berlusconi potrebbero avere un assist vincente da colui che mai si sarebbero aspettati poter essere un aiuto valido. È la storia di questo Andrea Alzetta, che ovviamente ora è interpellato a dire: ma lo sa che lei che ha scaricato letame davanti a Berlusconi e che ha una condanna, con questa vicenda potrebbe addirittura fornire l'assist a Berlusconi? Lui si innervosisce, dice: per carità, sono vicende diverse, mi infastidisce molto questa cosa, anzi diversi esponenti del PDL mi hanno chiamato per propormi iniziative insieme, ma io ho sempre rifiutato. Berlusconi per me rientra in pieno nella Severino, è stato condannato, io invece insomma no, io rientro, per me è un'ingiustizia. Vabbè, dicono tutti così, per me è un'ingiustizia. Come finirà questa vicenda? Chi lo sa? Secondo Letta, che continua a predicare ottimismo, viene dato in trincea così dai giornali, Letta in un retroscena, anche qui siamo sempre nel retroscena di Goffredo De Marchis a pagina 7, prepara una linea dura: ormai nulla ci farà cambiare idea. Il premier dice: io non posso intervenire, seguo il mio partito. E secondo alcune malelingue addirittura potrebbe essere un modo, questo anche del PD, per trovare il pretesto per far cadere questo governo di larghe intese e quindi far cadere lo stesso Letta. Staremo a vedere, tranquilli che non mancheranno le 10-15 pagine quotidiane anche sui giornali di domani per informarvi per filo e per segno di quello che è il barometro e il termometro di questa telenovela giunta alla puntata 5933. Ora la scuola, come detto, noi alle 8:30 avremo il ministro all'istruzione Maria Chiara Carrozza, sarà con noi qualche minuto. Ne parlerà anche Deborah Rosciani alle 12 in Salva Danaio di questa vicenda dei 400 milioni trovati con un decreto per la scuola. Buona notizia, certamente, assunti 26.000 insegnanti di sostegno, questo è il titolo per esempio di pagina 3 del Sole 24 Ore, sono stanziati a regime 400 milioni. Quello che ci interessa è un po' quello che c'è nel sottotitolo del Sole 24 Ore, cioè la copertura dalle accise, un po' il tema solito, le accise sull'alcol. Quindi aumentare le tasse sugli alcolici serve a fare la cassa e serve a trovare gran parte, non tutti, ma gran parte di quei 400 milioni che servono per la scuola. Tra le altre ipotesi però, attenzione, c'è allo studio un aumento dell'imposta di registro. La domanda qui sorge spontanea: ma con 800 miliardi rotti di spesa pubblica, perché per trovare 400 milioni fondamentali, importanti, ben accetti, salutati con soddisfazione per la scuola, perché bisogna mettere ulteriori tasse? Soprattutto il tema per molti è: perché questa questione di tassare sempre il cosiddetto vizio, no? In questo caso gli alcolici, tassare gli alcolici per favorire la scuola. Bevete, bevete, che importante è studiare. Comunque la scuola vive anche le solite polemiche annuali, continue, ripetute, che si ripetono negli anni sui test di ammissione alle università, in particolare l'ammissione dell'università di medicina. Da qui ripartiamo dopo il traffico. Attenzione Peter Bescapè, perché anche a te faccio un quiz per vedere se puoi accedere al test di medicina. Preparati, ovviamente non ti suggerisco niente, non cercare di corrompermi durante il traffico, tra poco. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, sulla scuola ogni anno ci sono le polemiche sui test dell'università, via subito. Intanto è stato tolto anche il bonus maturità per l'università, e già questo ha suscitato polemiche. Per la verità era stato già annunciato, ma poi ecco le solite temi sulla questione dei test per l'ammissione dell'università di medicina. Che c'entrano i quiz sul prosciutto e su Don Chisciotte? Questa è la questione che ogni anno si ripropone, lo sconcerto tra Cervantes e i quiz sul prosciutto, test falsati, non si cambiano le regole così. La stampa manda, questo è un altro grande classico, una giornalista, in questo caso Flavia Amabile, che si spaccia per studentessa e vuol fare il test di ammissione a medicina, poi racconta di queste domande tutte da svolgere in 100 minuti, quella che è definita da alcuni la solita ipocrita lotteria, e siamo al quiz. Eccolo qui, per esempio, Peter Bescapè sta sudando, voi dovreste vederlo. Questa, allora, caro Peter Bescapè, questa è una domanda che è stata fatta al test di ammissione di medicina. Quali tra le seguenti coppie non abbina correttamente la città e il museo? Città, museo, Peter, ti do 5 possibilità. Città con museo. Madrid, Museo del Prado. E questa è la lettera A. Oppure B, Parigi, Hermitage. C, Stoccolma, Vasa Museum. D, Roma, Museo di Palazzo Massimo. O E, Berlino, Pergamon Museum. Quale città non è? No, ma no, la C, Stoccolma, Vasa Museum. No, il Vasa Museum di Stoccolma. Parigi, ti ripeto, Parigi, Hermitage. No, l'Hermitage non è a Parigi. Poi Roma, Museo di Palazzo Massimo. La risposta è Parigi? Parigi, sbagliato. Oh, l'Hermitage non è a Parigi. Bravo Peter Bescapè, puoi scegliere la facoltà, insomma, cosa vuoi fare in medicina. E va bene. Comunque, anche il Messaggero. Proteste, flash mob, traffico, il caos dei test per medicina, ogni anno è la stessa solfa che si ripropone. A proposito di non medicina, ma il ministero che più si occupa di questo tema, vale a dire il Ministero della Salute, c'è un articolo sul Fatto Quotidiano che secondo Stefano Feltri mette un po' in croce il ministro Beatrice Lorenzin per alcune nomine che sono state fatte al Consiglio di Sanità. Consiglio di Sanità, Lorenzin chiama il medico di Berlusconi, questo è il titolo dell'articolo, cioè Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, è stato nominato al Consiglio di Sanità. Il Consiglio Superiore di Sanità è l'organismo che consiglia al ministro, si pronuncia sulle materie più sensibili, per esempio di recente ha dovuto stabilire se le sigarette elettroniche siano dannose per la salute, e racconta il Fatto Quotidiano, a parte Alberto Zangrillo che è il medico di Berlusconi nominato appunto dal ministro, non è tra l'altro l'unica nomina che fa storcere il naso a quella del Fatto Quotidiano. Per esempio anche Mario Stirpe, anche lui nominato dalla Lorenzin al Consiglio Superiore di Sanità, che è un altro che si è occupato della salute del Cavaliere. Oppure il neonominato Adelfio Elio Cardinale, già sottosegretario del governo Monti, che è anche il marito di Anna Maria Palma, cioè già capo di gabinetto di Renato Schifani quando era presidente del Senato. Il Fatto Quotidiano fa anche sapere che è imputato a Bari per un'inchiesta sui concorsi truccati. Insomma, alcune nomine del Consiglio Superiore di Sanità che fanno storcere il naso al Fatto Quotidiano. È da un po' che non lo trovavo, ma l'appello lo devo fare. Mani strette sul volante, cari ascoltatori, in questo momento, perché questo è il classico articolo che trovate sul Sole 24 Ore, riguarda le tasse di tutti voi e che vi fa sobbalzare, vi fa appunto tenere le mani strette sul volante o appoggiare le tazzine del caffè bollente se state facendo colazione. Vale a dire, la lotta alla burocrazia e la spending review mancata. A pagina 10 del Sole, Gianni Trovati ci fa sapere che in 10 anni, dal 2002 a oggi, regioni e Stato si sono scontrati per questioni di potere 1647 volte in Corte Costituzionale. Il 55% delle volte ha vinto il governo e il 47% le regioni, ma sono i frutti avvelenati della riforma del titolo quinto della Costituzione che hanno portato così a scontri di potere tra il decentramento locale, le regioni e il potere centrale. Indovinate un po' tutto questo che cosa ha come risultato. Come risultato è che il fisco territoriale, regioni e enti locali, è volato a quota 64 miliardi, aumentato del 17% solo nel 2012, mentre l'IVA devoluta alle regioni è raddoppiata in 10 anni. Intanto il fisco statale, se guardato bene dal ridurre la propria corsa, è passato dai 342 miliardi di entrate nel 2001 ai 445 miliardi di 10 anni dopo. Dunque, regioni e governo litigano su tutto, vanno in Corte Costituzionale e poi in quel posto, ce l'ha sempre il cittadino. È il momento, dobbiamo chiudere, del premio più ambito della rassegna stampa, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi vince Libero, con Pietro Senaldi, che in prima pagina, un'intera pagina corredata da foto, ci fa sapere che Balotelli fa un contropiede alla Chienghe. Dovevano incontrarsi ieri la Chienghe con Balotelli per parlare, insomma, fare le photo opportunity, queste cose qui sulle gli stranieri di seconda generazione, eccetera, ma Super Mario preferisce dormire piuttosto che andare all'appuntamento col ministro all'integrazione. E Pietro Senaldi su Libero, tutta una pagina a dire perfino lui si è rotto o non gli importa poco e niente della petulanza della Chienghe, ma insomma, una pagina sul fatto che Balotelli si è addormentato, come se Balotelli facesse poche balotellate. Ne ha fatta un'altra, doveva andare dalla Chienghe, non è andato per far la foto, sono andati El Shaarawy e Ogbonna. E il Libero ci dedica una pagina intera con tanto di foto. Amici di Libero, ricordatevelo sempre, dovevo dirlo prima al vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni: la carta costa, fate molta attenzione. È tempo di giornale radio, ripartiamo con Luciano Violante alle 8.15 e poi anche il ministro all'istruzione Carrozza alle 8.30, dopo.